cari amici. Come presidente della Camerata dei Poeti, permettetemi che io vi esprima la mia gioia e la mia contentezza per questa seconda tornata del nostro 67° anno di in omaggio alla poetessa e scrittrice Vanna Bonta, che stasera ci onora della sua presenza e alla quale vi pregherei di indirizzare un caloroso applauso di benvenuto. Grazie. Adesso Gabriella Fiori vi leggerà un telegramma venuto dal Giappone. È un grande piacere rappresentare il Giappone alla Camerata dei Poeti di Firenze. Scrivo dal Giappone. No, prendi, no, prendi. Io questi microfoni vedevo lontani e non li adoperavo. Ah, così si fa. Allora. È un grande piacere rappresentare il Giappone alla Camerata dei Poeti di Firenze. Scrivo dal Giappone. Mi chiamo Azumi Niva. Sono un amante dell'arte di Vanna Bonta e da lungo tempo suo lettore. Le poesie di Vanna sono sempre con me e sono fonte di energia, di saggezza e di pace quando mi sento stanco. La sua poesia trascende barriere culturali ed è un legame tra Est ed Ovest. Ottengono una vera universalità. Io sono certo che il più grande successo di Vanna è sempre più nell'avvenire. Tutti i suoi libri e le sue opere sono libri di vita e di eternità. Spero che voi vi unirete a me nell'augurare a lei che Dio l'accompagni nel cammino del suo lavoro poetico per arrivare ai cuori di tutti e di espandere il suo messaggio di amore. Grazie. Pur non avendo l'autorità necessaria, monicamente quale rappresentante di questo sodalizio, annuncio il gemellaggio poetico di Firenze con Los Angeles, dove appunto vive ed opera la Bonta. Un gemellaggio che trova le sue radici nella città del fiore, in quanto suo nonno Luigi Ugolini era il famoso scrittore fiorentino di tante opere di successo e che il comune, nella sua casa di Viale Alessandro Volta 103, fece installare una lapide alla memoria in occasione del centenario della sua nascita. In questa stessa casa abita Lidia Ugolini, la figlia, appunto zia della Bonta, che la custodisce come un sacrario e che voi tutti conoscete per essere la lettrice ufficiale delle nostre tornate, ma per molti ignorando che essa è autrice di successo di libri per bambini. Anzi, a tale proposito vi annuncio che negli Stati Uniti è in corso la stampa del suo più libro amato, già tradotto in altre lingue, Storia di un cane ricco e di un cane povero. Ne consegue che per Vanna gli ispiratrici ideali furono il nonno e la zia, coloro che accesero fino dalla sua tenera età la miccia della fantasia rivelandosi poeta. Ed ecco come quelle radici si sono estese nei vari paesi del mondo. Essa, come ho accennato nell'invito, è stata tradotta in lingua giapponese ed è presente nelle università di Tokyo, Oxford, la Sorbona, Yale, Harvard, eccetera. Ma c'è un altro particolare che non va sottaciuto. Nel 1986 la Camerata dei Poeti, in occasione di Firenze, capitale della cultura europea, bandì un concorso internazionale di poesia, l'unico in questi 67 anni. La premiazione si svolse in Palazzo Vecchio e la Bonta risultò la vincitrice per la poesia straniera con la raccolta Shade of World. Presidente della commissione di lettura a quel premio era la compianta Margherita Guidacci, una delle voci più autorevoli nel campo della poesia, la quale era rimasta affascinata dai versi della Bonta. dichiarandosi di aver provato sensazioni che nessun poeta prima di lei le aveva dato, quindi additandola come giovane talento da imitare. Vanna, dopo quel primo premio conferitole dalla camerata, torna a Firenze sempre giovane e bella, credo di sì. In un momento particolare del suo straordinario successo in corso negli Stati Uniti col suo romanzo Fly, già alla seconda edizione, dove la stampa è stata unanime nel definirla una scoperta importante. Questo è il libro della seconda edizione, di ben 400 pagine, il cui manoscritto sarà stato anche di 600-700 pagine. Ma vi rendete conto, nel mondo in cui viviamo, dove tutto è stato scontato, è pubblicazione di un'opera così compendiosa e che la stampa definisce una scoperta? Vuol dire che la Bonta dispone di una profonda conoscenza umana e di un bagaglio creativo non comune. Tuttavia, la parte critica, sia poetica che narrativa, ve la spiegherà dopo, meglio di me, la scrittrice fiorentina Gabriella Fiori, ormai famosa in Europa e negli Stati Uniti per la sua opera su Simone Weil, e Lidia Golini, che oltre a leggere le poesie vi racconterà fatti inediti della cara nipote. Proporrei anche a loro di indirizzare un saluto. Come voi tutti sapete, la poesia è considerata la sorella povera di tutte le arti, ovviamente a torto, però negli scambi culturali tra il nostro paese e gli Stati Uniti si verifica un divario. Mentre l'America attua encomiabili iniziative con l'invitare poeti italiani a spese loro, ivi compresi i viaggi per i familiari e gli accompagnatori, da parte nostra nulla viene fatto. Potrei citare vari esempi, per brevità mi limito solo a due: quello di Maria Luisa Spaziani, presidente del Centro Internazionale Montale, che assieme alla figlia furono ospitate in alberghi di lusso in alcune importanti città per un ciclo di sedute, e quello del nostro poeta fiorentino Marcello Fabbri con l'opera Light of Memory, tradotta sempre a spese loro dalla Jean Bonaca. In duplice lingua, il nostro poeta non vedente portò con sé la moglie e i due figli. Il Fabbri fu presentato in ben 4 università, tra le quali la Yale, che lo accolsero con grande calore nell'udire una poetica di alto livello, con il riscontro di un successo personale. Fabbri è qui presente e vorrei... Poiché abbiamo la presenza del Fabbri, lui potrà confermare quanto asserito. L'importanza degli scambi culturali, specie nella poesia, sono essenziali perché l'obiettivo di essa è illuminare gli animi. La camerata, senza il contributo di nessuno, ha rotto il ghiaccio, invitando a Firenze Vanna Bonta, un merito che ci rende fieri per aver realizzato questo incontro. Ed ora domandiamoci: chi è Vanna Bonta? Essa è unicamente parte di ciò che ha veduto e sentito. E cosa ha veduto lei in 5 anni, trovandosi nel Siam con la sola conoscenza dell'italiano insegnatogli dalla madre Maria Luisa, pittrice di valore, e del padre diplomatico, quale addetto militare in Thailandia? Quel mondo orientale, con i suoi riti, le devozioni del popolo alla loro regina Sirikitte, sollecitavano le sue curiosità, ma purtroppo il suo dialogo si limitava con la madre. Le mancavano i compagni, i giochi, nel sentirsi isolata. Ma un giorno, trovandosi vicino ad un gruppo di bambini siamesi, scoprì gli sguardi tra loro che supplirono quelli della favella, nel mistero dell'anima universale. A 7 anni, col padre attaché d'ambasciata, si trova in Virginia, dove già è padrona della lingua inglese. Già scrive poesie con concetti profondi, tutt'altro che di una bambina. A 11 è di nuovo in Thailandia, con la disponibilità della lingua che le consente di arricchire e approfondire esperienze di quel mondo particolare. A 18 è giornalista, professionista, attività che svolgerà per 3 anni, con lo scrivere articoli su vari argomenti, con i giornali The Washington Post, Alessandro Gazzetta ed altri. Prende parte come sceneggiatrice di alcuni film, parla alla radio, in teatro, dimostrando anche un grande temperamento come attrice. Nel film La Bella e la Bestia di Walt Disney, ma ha dato la voce a vari personaggi. Ha coltivato la danza, la musica, è virtuosa nel suonare il pianoforte. Ma quante cose riesce a fare questa bonta, voi mi direte? Io vi confermo che è così, perché possiede quell'estro di genialità non comune, ancora più apprezzabile per lei per l'umiltà e la generosa disponibilità del suo animo. Già nell'81, 15 anni fa, pubblicava la raccolta di poesie Reward of Passing con l'editore Empire Book. Nell'85 è la volta di Shade of the World, che, come vi ho già detto, fu presentata alla Camerata dei Poeti. Nell'86, nell'89 pubblicò The Gris, della quale fra breve potrete ascoltare alcune poesie. Che cosa potrei aggiungere ancora di lei? Che è un'artista dolcissima, dotata di una forza spirituale che le consente di diffondere il suo messaggio rivolto al bene e all'universalità del suo animo, sempre teso alla concordia e all'amore. Grazie. Ed ora darei la parola a Lidia Golini per entrare subito nel vivo della poesia. Parlare, scrivere di poesia, di questa umile musa che annuncia il suo essere non con marce trionfali, ma soltanto con l'incanto della parola, figlia della mente, che tra i tanti doni ricevuti ha quello di poter esprimere ciò che viene dettato dall'anima. E chi per primi rappresentano la poesia sono i fanciulli, vera essenza dell'uomo. Anni addietro ci fu una persona che per una bimba scrisse tra l'altro queste parole. Non è facile una presentazione a una poetessa di 11 anni, specialmente quando il presentatore è suo nonno. Presentatore e scrittore, il che significa una certa responsabilità di fronte al mondo. E terminava: io ti accompagno dolcemente sul limitare di una grande via, possa tu percorrerla sotto un cielo sereno col sole che illumini i tuoi capelli biondi. Il nonno era mio padre, Luigi Ugolini. Il libretto fu stampato a Bangkok e fu la madre di Vanna a deciderlo, affinché le poesie non andassero smarrite. La piccola poetessa era una bimba molto bella che ha mantenuto la medesima grazia di allora. La poesia nasceva da lei fresca e spontanea, come nasce una pianta dalla terra. Ingenuità e anche maturità di pensiero, e un saper guardare alle cose con rara intelligenza. Ma è della Vanna attuale che dobbiamo dire. Lo hanno già fatto la scrittrice professoressa Gabriella Fiori, perdono, doveva farlo, ma ho parlato prima io, e il presidente Otello Pagliai. Il primo volume di liriche fu edito nel 1981. L'autrice ventenne l'aveva scritta all'età di 15-16 anni fino ai 20, e scopo principe dell'artista, fino da allora, è sempre stato dettato dalla pura devozione alla poesia, volta alla spiritualità dell'uomo, creatura terrena e divina. Una visione che abbraccia le cose tutte della terra e le unisce in un'unica armonia, un distillato di esperienza, di verità universale che lega ogni essere, una sola divina essenza alito di vita eterna. Torna a guardare da ricompensa di amore, pensando di avermi veduta, tu mi descrivi dagli occhi, dai capelli e dai colori. Tu non mi hai ancora veduta. Ti faccio venire in mente dune di sabbia e profumo di mare? Ma di me, cosa di me? I venti mi attraversano. Se io apparissi senza corpo, mi riconosceresti? Gli esseri non sono fatti d'aria. Riflessione. Quieta notte, un pozzo di stelle, fermo il giardino velato di luna e di nebbia, sosto in preghiera. Io sono una mano, questo universo è l'altra. Io sono sacra quando tu mi ami. Io sono il tuo santuario e tu sei il mio. Ogni raccolta poetica è formata da quattro argomenti: vita, morte, arte, uomo, donna. E in ognuno di essi ciò che predomina è la visione di un amore che supera anche la più tragica delle situazioni. I nostri occhi sono porte dove ci incontriamo. Oltre la soglia ci tuffiamo nell'infinito. La nostra risata rimane lontana di miglia. Vessillo, sono una dea. Perché mi poni su un altare senza prima raggiungermi con mani umane. E in divina venerazione io sono donna, tu sei uomo. Adorandomi sul piedistallo la tua forza sorpassa tutto. Hai combattuto battaglie, sei morto per me. Hai vissuto nel buio e nell'agonia per me, perché io sono la divinità in te. E tu il motivo per cui continua a esistere. L'opera lirica di Vanna va dal 1980 al 1989 e riflette gli anni dove, anche nel campo dell'arte, il denaro sempre più acquistava la sembianza di un dio, come la poetessa descrive nei versi di una lirica dal volume Sfumature del mondo, dal titolo Geranio rosso. Queste sono brevissime parole, però descrivono un concetto molto importante. Non è una villa che ha fatto mai un uomo, e i miei gioielli non fanno di me ciò che io sono. Dunque, Sfumatura nel mondo è stato tradotto in lingua giapponese e il popolo di quel civilissimo paese ha sentito la poetica aderente al suo spirito. La copertina sul volume è una fotografia di una bilancia che ha da una parte un cuore, dall'altra il dollaro. Le liriche vertono tutte sul concetto della sopravvivenza dell'anima in un mondo sempre più asservito al denaro. Il pensiero della poetessa si esprime in concetti che indicano all'uomo la via da seguire, onore e amore verso il prossimo. Il guadagno è sacro soltanto quando i risultati di questi principi non siano una meta da perseguire in se stessa. Si spendono cifre che potrebbero togliere la fame e l'ignoranza dal mondo. In questa sua seconda opera l'autrice affronta il problema con intelligenza, mostrando come sbagliato sia l'uso del denaro, ed è un esempio di come si deve fare importanza solo ai veri valori della vita. Ora leggerò la lirica Vessillo. Già stata letta? No. Il problema. Le armi nucleari non sono il problema, sono la soluzione. E non risolve i problemi nostri, dicono gli americani e i russi, mentre non esistono. Noi siamo esseri umani. Quando dicono loro, io mi domando che faccia ha la grande folla. Loro sono soltanto un pugno d'uomini inclini a usare il pianeta come personale scacchiera. Chi sono i russi? Chi sono gli americani? Di chi sono? Vorrei tanto vederli, questi mostri che giustificano l'annullamento della specie. Ho cercato. Non esistono, ti dico. Io vedo solo tu ed io, e tu, e tu, e tu. E il farneticare di una manciata d'uomini distorti che hanno davvero problemi gravi da risolvere, che non sono poi così gravi, salvo che per la loro presenza. Adesso la Gabriella Fiori, Gabriella Fiori farà l'intervista con la protagonista. Io ho avuto un grande piacere, un grande gioia nel conoscere Vada Bonta e desidero, abbiamo parlato insieme molto, molto bene, molto piacevolmente, e perché io l'ho scoperta attraverso questo libro Flight, che vuol dire volo. Vuol dire anche fuga, flight, ma io scelgo volo, che è il nome, cognome della protagonista, Aira Flight. Aira, in questo senso di areita. E proprio anche, anche Vanna me lo ha dato. E senso di areita e grande intelligenza. Intelligenza del pensiero che è totale, che deriva da tutto l'essere. Ora comincerò anch'io da alcune poesie, perché queste poesie poi si ritrovano nello spirito del libro. E le traggo dal libro, dalla raccolta, edita da Dora Books negli Stati Uniti, California, nel 1985 e premiata dalla Camerata dei Poeti nel 1986. Il libro si chiama Shades of the World, Sfumature del Mondo. La traduzione è mia, come era mia anche la traduzione delle poesie che ha letto Lidia Ugolini. Ci tengo perché è una mia responsabilità la traduzione. Allora, la comprensione precede la pace. Essere. Per quelli fra voi preoccupati di essere qualcuno, voi già siete. Il potere non genera corruzione. La corruzione tenta il potere. Il pensiero non viene dal cervello, ma lo usa. Le cœur. Il coraggio è il cuore che, una volta che sa e poiché crede, affronterà qualsiasi avversario per essere se stesso e andare avanti, poiché sa che ogni altra cosa è morte. Il coraggio è il cuore. non sentirti come uno stupido se hai avuto fiducia e fosti tradito. Il ladro deruba se stesso. Ci sono poi tre poesie, amore primo, amore secondo, amore terzo. Io vi leggo amore terzo. Dall'amore scaturisce la vita, parte della tua stessa vita come il dono più puro. Non c'è traccia del donatore. L'amore è una vita che tu generi. Esalando un battito di cuore e staccando il respiro, desiderando solo che viva così tanto, così appieno, da sprezzare per sempre ali tutte sue. Scusa, mi passi il registratore per favore, perché è rimasto là, se no, paura che non, dopo non rimane. Grazie. Ecco, così abbiamo parlato insieme con Vanna, e per Vanna Bonta tutto proviene dalla poesia, consiste nella poesia. Dice, la poesia è la fiamma dell'anima umana, l'essenza che è la stessa in ogni essere umano e che lei ha cercato di esprimere fin da quando ha cominciato a pensare e a scrivere, che è stato molto presto, aveva 6 anni. Bilingue per l'italiano e per l'inglese, come vi ha detto Otello Pagliai, ben presto, la conoscenza di queste due lingue e poi la vita sempre in vari paesi, fra tanti tipi di persone, l'ha fatta riflettere presto sul rapporto fra il concetto, il pensiero e la parola. Appunto, quando era bambina in Thailandia, di là da un cancello ha guardato negli occhi i bambini siamesi che le hanno parlato, emettendo suoni nella loro lingua che lei non poteva capire, ha visto che li capiva attraverso i loro occhi e loro capivano lei. C'era una comunicazione. Da allora Vanna ha avuto l'aspirazione a creare ponti, lei parla proprio di ponti, per capirsi e far capire gli esseri umani fra loro. Ponti fra un'essenza e l'altra, perché, dice Vanna, non siamo materia. La materia è una dimensione in cui entriamo con queste nostre navicelle, i corpi. La poesia contiene come un seme 3 aspetti della vita: la creazione, il ritmo, la concisione. Nella concisione esistono verità e bellezza. Vi si trova un assioma, una massima, un messaggio che ci può guidare verso la comprensione della nostra ragione di vivere e di conoscere. Poesia significa anche pittura, scultura, musica, tutte le espressioni che da secoli offrono prove su prove della realtà dell'anima umana. Punto. Aggiunge Vanna, esistono solo il pensiero, l'osservatore, la creatività. Io, Gabriella Fiori, l'ho incontrata nelle pagine del suo primo romanzo. Questo è il suo primo romanzo, Flight, appunto, volo. E del 1995, 8 mesi, soli di distanza tra la prima edizione in hardcover, cioè in tela, e già la seconda rapidamente, si parla di tascabili a richiesta, data la sempre maggiore diffusione del libro dalla California, dove è stato pubblicato, agli altri stati. Molti i lettori che hanno scritto a Vanna, e per Vanna Bonta la frase che più le ha dato gioia, che ricorre nelle lettere che le sono più care, è questa: mi hai ridato tutto quello a cui avevo rinunciato, che non dicevo nemmeno più. Quante persone, quanti di noi sono smagati di non poter parlare, di non poter comunicare, dire i propri ideali, i propri bisogni, i desideri, esporsi. No, spesso, molto spesso, le persone che più anelano ad esprimersi vengono rintuzzate, magari per stanchezza, per paura, per diffidenza. Per Vanna questo libro rappresenta il culmine delle sue ricerche di conoscenza e di espressione sul tema che da sempre ha voluto la sua attenzione. Appunto, come vi ho già accennato, la relazione fra il pensiero e la parola. Culmine delle raccolte di poesie, dei racconti, degli articoli, lavorando per vari giornali sul cammino dell'esperienza concreta che mi ha detto Vanna, da lei è stata preferita alla scuola di giornalismo, e anche del pianoforte, della danza, del lavoro di attrice, di doppiatrice e di animatrice di spettacoli. Ama molto questo fatto di animare, in quanto animare, animazione, ha un rapporto con anima, e c'è sempre questo aspetto di creazione in cui crede molto e che è in ognuno di noi. Si è domandata: cosa potrei lasciare al mondo come dono? E si è preparata, esercitata, mi ha spiegato, in expository essays, cioè prove di esposizione, di esporsi, di affrontare, di dibattere con personaggi, creando personaggi che si contrapponevano alla sua idea, alla sua visione del mondo, con idee contrarie e ostili. Poiché, dice Vanna, bisogna avere la testa nelle nuvole, ma i piedi in terra, ben radicati. E aggiunge: penso che sia possibile, che è possibile arrivare alla verità se si cerca una cosa empiricamente, attraverso l'esperienza, vivendola. Questo è un libro di quantum fiction, genere letterario creato da Vanna Bonta, che non è science fiction, benché nei bollettini editoriali sia situato come tale, non però nelle librerie dove lei è andata a vedere, giustamente, dopo 3 anni di durissimo lavoro, scrivendo tutta la giornata, e perché è un libro di grande concentrazione, Flight, e dove l'hanno collocata nel campo della letteratura. Questa è una storia che si svolge per esprimere una teoria scientifica basata sull'osservazione dell'atomo, poi dell'elettrone e del neutrone, fino al quark, la minima molecola che poi sparisce anch'essa. Onde che si trasformano in particelle, particelle che ritornano onde. C'è un ordine, lo implicate order, l'ordine implicato del grande fisico teorico inglese David Bohm, che io ebbi l'onore di conoscere e lo intervistai, scrissi un articolo nel 79 nel convegno di Cordova Science et Conscience, Scienza e Coscienza, organizzato da France Culture, oggi scomparso. Era veramente grande quest'uomo, era d'una semplicità, d'una silenziosità, con 2 occhi celesti, sembrava una timidezza totale, mi ricordo, e parlava con una grazia, con una dolcezza, parlammo insieme così bene, era tutto rattenuto, era un grandissimo genio. Un altro fisico italiano che era presente al convegno mi disse: è il più grande fisico teorico dei nostri tempi, ha lavorato molto con Krishnamurti. E Vanna Bonta lo cita più volte, proprio David Bohm è dentro. E nell'implicate order ogni cosa è implicata in un continuo avvolgersi e dispiegarsi, dice Bohm, in seno a un hollow movement. Whole, che vuol dire sacro e vuol dire intero in inglese, whole, intero, holy, sacro. E appunto il senso del sacro, diceva Bohm, è collegamento fra questi due aspetti, con l'interezza, la totalità. Ed è un movimento totale che contiene spazio e tempo. E voi direte: questo lavoro, in teoria, sarà metallico, sarà concettoso. No, è tutto espresso attraverso personaggi vivissimi, molto interessanti. È appassionante. Io fin dalla prima sera in cui mi immersi nella lettura e cercai di percorrerlo in gran parte, spengendo la luce a malincuore verso le 2 di notte, l'ho trovato un libro sulla realtà, sull'utopia in seno alla realtà e sul desiderio che questa utopia si realizzi. Il desiderio è che l'amore riconosca la propria creatività efficace e trasformante, e che veda e sappia questo: la barriera è l'illusione che noi siamo soltanto corpi. I personaggi parlano costantemente su 2 piani: il piano esterno dell'interazione sociale e il piano dei pensieri, che di ognuno rivelano la posizione sul cammino verso la verità. Flight, volo, è il cognome di una donna di nome Aira. Di nuovo vi dico che evoca l'aereità, che è la protagonista di un romanzo di fantascienza che segue una via nuova, appunto quella della quantum fiction. A un certo punto del libro lo scrittore, l'autore che ha creato il personaggio di Aira, dice: io sono un autore di quantum fiction come una certa Vanna Bonta. E l'autore è Mendel Orion, per il quale Aira è la donna dell'intesa ideale che lui ha sempre desiderato. Amore, serenità, verità sono i 3 principi che animano Aira nel suo viaggio attraverso il cosmo sulla sua navicella spaziale, dove si trova insieme a Onyx, piccolo drago femminile e suo sensor mate, compagno di sensibilità. C'è tutto un glossario al termine del libro molto interessante, che parla di tutti i termini di questa realtà, realtà utopistica più realtà della realtà, realtà vissuta da Aira Flight sulla sua navicella e scritta da Mendel nel libro. Dunque i due pensieri di Mendel e di Aira sono in continuo rapporto, al punto che Aira apparirà incarnata. E il sensor mate Onyx è delizioso, è un piccolo drago femminile delizioso che ama moltissimo Aira, ed è lì per percepire il pericolo, difenderla, proteggerla. Anche Aira pensa a un amore lontano, Jorian, con cui non ha potuto trovare l'intesa. Avevo bisogno di amarlo, confida Onyx. Non dipendevo da lui come surrogato della mia vita. Perché Onyx rimane male, Aira non vuole la dipendenza, e Onyx rimane male, dice: non c'è nulla di male nella dipendenza, si scomunicano i pensieri. È vero, dice Aira, è uno scambio di fiducia la dipendenza, però gli spiega che, dice, non lo volevo come surrogato della mia vita. Allora Onyx si rassegna, capisce fino a un certo punto, perché Onyx si prende la responsabilità fino a un certo punto. La verità non è che gli piaccia molto, lui ama Aira, la difende, la protegge, e sarà così anche dopo, quando con lei scenderà sulla Terra. La interdipendenza tra gli esseri si basa sulla fiducia. Dal tribunale dell'universo di cui fa parte, Aira ha ricevuto premi. Questi premi, che lei vede svolgersi in un film che si chiama Trekking, si svolge questo film sulla navicella e rievoca il passato, lo mette tutto insieme il passato. E Aira è così vasta che vede le cose in una polyview, in una visione complessiva che tiene conto della visione di ciascuno. E lei ha ricevuto premi per il potere di Dao. Dao è un verbo nuovo che significa amare così tanto da dare vita intorno. Se vi ricordate la poesia che ho letto, che era parlava dell'amore che permette, che stacca dalla simbiosi il contatto come un cordone ombelicale, stacca e fa sprezzare per sempre una vita autonoma nell'altro. E dunque ha avuto il premio per il potere di Dao, un altro premio per la scoperta della radice del linguaggio, per la comunicazione e come catalizzatrice di comprensione. Tutte queste notizie le troviamo sul computer di Mendel, perché ci sono queste pagine grigie nel libro che sono che è la storia sul computer del romanzo. Lo scrittore: la navicella di Aira è assalita da Juristak, che fa parte anche lui del tribunale, però lavora con invidia per avere lui il potere, cioè per fare un malo uso del potere, che vuole ridurre Aira al sonno nella Z-Zone, la zona Z, la zona Z in cui si entra per evitare la pena e il rimpianto. Si dorme, e molti esseri sulla Terra, e anche qui vengono nell'universo, si abbandonano al sonno e sono attirati nel sonno, quando c'è una volontà di distruggere il loro coraggio e la loro forza di creazione. Aira resiste, la navicella viene ostacolata nel suo viaggio, non capisce, la prima tenta di metterci tutta la forza, ma viene benvenuta nella Z-Zone, no, non ci sono io, e dice, resiste, e dice, l'unica cosa è nascere, io devo rinascere, e è costretta a nascere sulla Terra, però c'è un momento in cui dice, non mi ricorderò più nulla, aiuto. Nasce come donna, non passa attraverso il neonato, l'infanzia, no, come donna. Sulla Terra, nuda, arriva con i lampi e scende sulla Terra, in una città sconosciuta, lei non capisce nulla, non sa nulla. Giungendovi per la prima volta, però, vede più cose di noi che siamo prigionieri delle abitudini mentali e reagirà sempre con adamantina. Innocenza sapiente, adamantina innocenza sapiente, e enorme intelligenza, questa sapienza è l'intelligenza dei tempi, è un'intelligenza vastissima che è proprio alimentata dall'innocenza. Mendel non può più andare avanti nel suo libro. Aira compare nel bagno dell'albergo dove Mendel si trova a un grande convegno di fantascienza. È nell'albergo, prima con gran confusione di tutti, nei saloni dell'albergo è comparso un cagnolino bianco, è il piccolo drago che fa confondere tutti, scappa fra le gambe, e non sanno. E Mendel a un certo punto dice, ma questo cagnolino chi è? Com'è? È mio, dice, non lo sa, non è suo, però lui sente che deve difenderlo. Infatti il cagnolino sale su, Nella camera dell'albergo, anzi a un certo punto lui sta solo con questo cagnolino, dice cosa fa, avrà fame, allora ordina due hamburger per me, bisognerà ordinarne quattro. Il cagnolino non tocca la carne, perché il cagnolino è vegetariano. Allora va nel bagno a un certo punto e Aira è lì nel bagno. E lì tutta con i capelli in tempesta, nuda, accoccolata sul bordo della tinozza, disperata, e poi ha piovuto, si è tutta bagnata e sta lì. E lui dice, è lei, Mendel fa, è lei. E sente una fiducia, un benessere straordinario. E poi aveva disegnato una donna poco prima, grandi occhi azzurri, una bocca piena, è lei, una donna bambina, e lei piange e non sa nulla, e la chiama, dice dove sei, dove sono, la chiama Aira Flight, e lei dice Aira Flight, va bene, ma questo nome non le dice niente. Quando corre il cagnolino, allora si abbracciano così, onks, E allora lui Mendel lo chiama Onks, e lei lo aveva abbracciato così senza sapere. E, sì, e così comincia la storia, questa storia della presenza di Aira. Poi però, anche poco tempo dopo, benché senta questo benessere straordinario, Mendel, che infatti non beve, va giù a fare la conferenza che non voleva fare, per cui aveva incaricato un amico scrittore, e è insidiato dal dubbio, e questo dubbio andrà avanti e si intervallerà con invece le scoperte via via di Aira su se stessa, di Mendel su di lei. Allora, Aira Flight è un'amnesiaca, un'imbrogliona, una finta innocente che mira ad irretire Mendel, come pensa Sandra, la giornalista continuamente sulla breccia per attrarre Mendel e detenerne il possesso. Rex, autore in competizione con Mendel, è colpito dalla sua ingenuità. Secondo la comprensione che essi hanno, il cammino della memoria, del proprio sé vero, della vita vera, verso casa, patria, home. Senza tregua il lettore e la lettrice sono messi in contatto con i pensieri dei personaggi, cioè il filo del loro vero agire e le loro azioni superficiali, le loro soluzioni, per esempio per Mendel il bere. Le descrizioni fisiche sono minime, i personaggi emanano se stessi, per cenni, gesti, sguardi, sorrisi. Ora vi leggerò due brani del libro, la poesia iniziale e la scena conclusiva. La traduzione è mia. Prologo. Una volta, prima del tempo, gli esseri non avevano corpo. Una via. Io cullo le foreste nelle mie braccia, trinate di verde, cariche di nebbia, con profumi di pini e di pioggia, e armonie sinfoniche sotto le pietre, rami in danza di trilli. Se tu trovassi i miei occhi, in un istante il mio corpo sparirebbe. Potresti respirare l'aria del mare, la tua visione piena di onde e di orizzonti azzurri, arricciate di bianco, creste spumeggianti e arcobaleni in ogni molecola. Se tu trovassi i miei occhi, fra l'istante ogni cosa intorno a noi svanirebbe. Saremmo a casa, in brillanti spiagge di stelle venate di viola, sistemi solari, la mera distanza fra i nostri occhi, le nostre braccia perfino più lunghe. Il nostro riso sarebbe dapprima come mille brillanti palloni in festa. Si dissolverebbe pieno ed urgente, sgorgherebbe fuori dall'ultimo muro. Noi ce ne andremmo con lui al di là dell'ultimo perimetro. Se noi scegliessimo di avere mani, potremmo trovare la terra che si riposa sul nostro mignolo. Potremmo focalizzare qualsiasi cosa, suonare qualsiasi cosa. Potremmo scivolare giù, lungo la spirale, tornando a ruscelli di stelle e di soli, oltre cieli ed uccelli, e di nuovo tuffarci nei nostri occhi, trasudare come un sorriso. Nell'epilogo, Vanna Bonta dice: nello scrivere l'ultimo capitolo, mi sono presa la libertà di far cantare il mondo. Aira e Mendel hanno detto che, dato che ogni realtà comincia con un'idea, la cosa andava bene. Così ascoltiamo il canto. Un una melodia salì ai cieli. Le sue ali erano il potere della vita umana, il suo battito di cuore, il volere dello spirito umano. La voce veniva da individui, ognuno e tutti unici. Cominciava in un'anima e attraversava la gola per trasformarsi in suono. Il suono di alcuni era timido, il suono di alcuni era tenue, eppure ogni suono faceva vibrare l'aria ed era essenziale, poiché tutta la melodia non sarebbe stata la stessa se ne fosse mancato uno solo. Via via che la melodia cresceva, così aumentava il potere di ogni voce. Guide in ogni reame e attività della vita sapevano che il potere di cui erano venuti in possesso esisteva perché essi erano responsabili di servire i molti. Così il potere era una posizione di servizio. E coloro che si erano affidati alle loro guide sapevano che questo aveva uno scopo e che si doveva tener fede allo scopo. La responsabilità diventava questione di preferenza, questione di quanto qualcuno desiderava causare ed essere responsabile per questa causa. E la sfera poteva inglobare il loro corpo, la loro famiglia, i loro associati, il regno degli animali e la vita delle piante, e continuare attraverso tutta l'umanità fino all'influenza sulle molecole e sulle particelle e persino al di là dell'universo materiale. Ma era una questione di scelta. La schiavitù era soltanto autoassegnata e il conflitto fra padrone e schiavo svaniva e diventava invece un'armonia di interazione e di mutua dipendenza, poiché i padroni erano servitori e i servitori padroni del loro scelto reame. Ciascuna voce e tutte le voci erano vitali. In tutto il pianeta ce n'era solo quanto contiene una mano che non riuscivano a cantare, ed essi temevano l'incandescenza poiché vivevano nel terrore di venire uccisi da tutto ciò che si muove. Ma via via che la vita diventava libera, il suo potere non era di morte. E così la melodia crebbe e si gonfiò, poiché molti avevano udito la diceria che la sofferenza non doveva essere eterna e cominciavano a considerare l'idea che erano buoni. Il suono sgorgò e quello che era incominciato come una tremolante voce umana divenne divino. La melodia indugiava, era fatata ed eterea, era enorme, diventava un immenso esalare nell'atmosfera del pianeta, ovunque, un respiro, un esalare vita. Allora cominciò il canto. Alcuni avevano imparato le parole, altri le leggevano da un foglio, e benché i simboli del suono fossero diversi in ogni lingua, la melodia era la stessa. La gente sapeva ciò che li aveva resi umani. Non erano le loro imperfezioni, ma i loro cuori. Abbiamo conosciuto la sofferenza, ma osiamo chiederci perché. Un respiro di luce si espande e i cuori fioriscono per volare. La verità non può mai morire, poiché essa è la vita stessa. E la vita è il vincitore, l'anima la sola ricchezza. Così noi diamo libertà alla nostra bellezza e la facciamo splendere fino alla luce, per spogliarci di ogni forma di schiavitù, come dei. Ora prendiamo il volo. Sì. Ora mi piacerebbe domandarti. Adesso. Vorrei domandare appunto cosa. Vorrei domandare, penso a nome di tutti, a Vanna Bonta, quali sono i suoi progetti di poesia per il futuro? Se questo romanzo continuerà, andiamo. Se ritroveremo Ira e Mendel che sanno interpretare i nostri desideri. Più adatti. Vero? Più attivi. Prima, questo libro è il primo di una trilogia. E dunque il prossimo escerà entro 6 mesi. Spero che sarà possibile incontrarci nelle pagine del libro, benché sono dolci sentire elogi, interpretazioni, non è la stessa cosa che di incontrare il pensiero nell'opera stessa. Vorrei dire prima, scusate, non conosco la lingua italiana come l'inglese, ma vorrei esprimere alcune cose che spero potrò comunicare abbastanza bene. Prima di tutto sono molto felice per questo omaggio e raccoglienza da una città che ho amato da piccola. Ringrazio la Camerata dei Poeti, in modo particolare il presidente Otello Pagliai, la Gabriella Fiori per la sua virtuosità in lingua e letteratura in diverse lingue, anche in inglese. La scrittrice Lidia Golini, anche Sergio Rinaldelli per le prime traduzioni che fece, la poetessa Margherita Guidacci che rimane con noi in anima nei pensieri in quale ci incontriamo. Firenze per me è sempre stata la capitale dell'arte, perciò dell'essenza dello spirito umano che è di creare, di fare qualcosa nonostante ostacolo o circostanza nella vita, sia nelle attività più di ogni giorno fino a master, come si dice, master in craft. Fino a un'abilità, nelle attività di ogni giorno, fino a un'arte. Fino a un'arte che si pratica per arrivare alla visione che vogliamo dare al nostro prossimo. Io riguardo questo mondo come un posto dove tutti vengano da una loro casa, universo che è il nostro proprio cuore. Mi meraviglio sempre a trovare l'anime degli artisti, specialmente di Firenze, che per me ci sono i miei eroi e santi, hanno cominciato onde che hanno influenzato il mondo per secoli. Non si deve mai underestimate. E sottovalutare. Sottovalutare la potenza di una idea e di una persona in creare la realtà e la civiltà. Questa conferenza è stata per me un dono che non aspettavo, non immaginavo mai, e sarà un ricordo incancellabile, non per ragione di elogi, benché sono dolci a sentire, ma al punto c'è il punto dove né elogi né la critica sono fattori nel lavoro, perché si deve sapere noi stessi che abbiamo fatto quello che si doveva fare a specificazioni e valori. Se ho avuto ambizione è stato soltanto di creare opere che comunicano la perfezione del creato e del mio prossimo e di cercare verità per dare servizio a questo. E il più dolce successo è di sapere che un lavoro mio è riuscito a liberare il mio prossimo. Poesia è la padrona della mia vita e io sono semplicemente sua serva. Dunque le recensioni e le elogi non sono per la mia persona, ma per la poesia. Servendo la poesia e anche servendo ogni essere umano, è ogni forma nel creato. Viene dal greco poin, vuol dire creare, ed è questa la fiamma divina in ogni essere. È il potere di creare perfino a influenzare la realtà. La bellezza, la verità ci libera dal nostro stato imperfetto umano, perché nonostante che ci sono elementi in questo mondo che sembrerebbero di invalidare il meglio in noi, l'arte, la bellezza, la verità in tutte le loro forme ci portano avanti la prima fiamma, è il primo respiro dell'anima che dà vita alla materia. Emerson, Ralph Waldo Emerson, disse: ogni parola una volta era una poesia, e poesia è lingua fossilizzata. In questa descrizione c'è tutta la verità che la poesia stessa non sono le parole, ma quello che le parole servono. La poesia è quello che sappiamo nei nostri cuori come verità, anche quando circostanze nella vita, comprese le nostre imperfezioni, rimprovano le nostre visioni. In questi tempi sembra che esiste una fase dove interessi promuovono aspetti del peggiorare l'umanità. E vedo tanti che abbracciano il buio e penso, perché credono se vedano una cosa eccellente le rinfaccia per qualche senso. Invece non è vero, indietro ad ogni difetto c'è una ragione che quando compreso può risolverlo. Indietro alla rabbia umana c'è ferita, indietro all'invidia c'è la paura di uno che pensa ha perso il suo proprio potere di creare. Firenze però è testimonio che a riconoscere le cose che servono tutti, tutti sono beneficiari. Perciò io ammiro con abbandono l'arte che trovo. Eccellenza ci ricorda della nostra essenza, non dei fallimenti. Come un'anima ha bisogno di un corpo, la poesia ha bisogno di parole e va anche vissuta. Vorrei ringraziare ognuno di voi, vorrei ringraziare anche la mia madre prima di tutto per un grande spirito che non si arrende a altro di quello di quale è convinta, le sue pitture, ma di essere fiorentina. Vorrei ricordare anche mio nonno Luigi Gollini, che per me era un eroe per il suo potere di commuovere e scuotere anime. Grazie al signor Joseph Turner, che venne qui dall'America con dedicazione alla cultura, poesia è sentita con l'anima, è servita dall'intelletto, è cantata con il cuore. La tecnica è un sistema, l'artista stabilisce con se stesso per raggiungere l'effetto che desidera creare. Tutto creato dall'amore ha un'anima. È detto che l'amore è cieco, ma invece io dico l'amore vede tutto. E la prova è che ci si perdona le persone che amiamo, si cerca di capirle di più, la ragione indietro a tutto di loro. Mi unisco a voi a ringraziare tutti del passato, presente, compreso noi in questa stanza, e che verranno nel futuro, che tengano viva la fiamma della nostra essenza. Firenze è la culla, è il capitale dei miei santi. Viviamo la nostra poesia. A Firenze, all'Italia, il cuore del mondo la considero. Grazie tanto di essere qui. Io leggo queste belle poesie. Ora vi leggerà delle poesie Lidia Golini. Il pensiero di Vanna è panteistico, un tutt'uno con la natura, e in gratuito essa scrive: vivrei nei boschi e mi adornerei con felci e gocce di pioggia. Questo non mi recherebbe offesa perché non sarei costretta a mercanteggiare per sopravvivere. Nella goccia di pioggia, gravida di sole, io trovo la gioia. Ed anche se non posso mettermela in tasca, la tengo come un diamante. Non sarò mai povera finché sarò viva. Che cosa chiede la terra in cambio del suo frutto, delle sue acque, del suo sole? Solo che tu li prenda perché lei vuole amarti. Come ciò la rende degna, come la capisco, perché so che sono la vita e non mi manca niente. Nella poesia di questa autrice affiora sempre una profonda filosofia. La poetica serve e insegna a vedere e a dare ad ogni cosa la sua giusta dimensione. Adesso, in questa breve lirica, Vanna scrive: il corpo non conosce dolore, non così l'anima. Almeno un nervo al limiti, la parte del corpo, un nome, ma l'anima, non ci sono bende, anche piangere non serve. Vi è molta saggezza nei versi di Vanna Bonta, e grazia, e finezza d'immagini. Una voce nuova è simile a una pianta, a un fiore che nasce, ognuno diverso dall'altro, ed è in questa diversità, pur tra simili forme, che si mostra tutta l'immensità del creato. Ora, come ultima lirica, leggiamo l'inedito La pagina e il silenzio, mai letto in pubblico, e che farà parte di una raccolta nel 1977 dal titolo Attraverso il tetto di cielo. Sto scrivendo poesia in maniera diversa. La pagina è il silenzio, il lettore è il vento. Esso sfoglia la spuma del nascere della bellezza, assorbendo con carezze le gemme per le quali questo poeta ha lavorato. Le gioie, la disperazione, portando via pensieri tanto vicini al cielo, fin quasi ad aprirne le porte. Così pochi volevano fare questo rendezvous. Da quieti il silenzio è leggibile anche da coloro che furono feriti da atrocità. Come il vento annaspano in cerca del silenzio. La verità è il braille dell'anima. Da quieti uomini adattati a banalità fu giudicata matta di proteste e di entusiasmi. La mia visione non mi abbandona, il paradiso corre nelle mie vene, io ne prabocco. Ma in silenti sorrisi, ora in silenzi lacrime, in inni silenziosi. Tra tanto rumore io mi volgo a incidere il silenzio, dove onda di sorriso e di lacrima unisce l'uomo ai serafini. Ho rimproverato la mia mano per non aver preso penne e carta, ma poi non vidi moltitudine ad aspettare poesia, ma con stracci invece correre per vestire l'ideale. Non più ardente ricerca della penna ad ogni ora, ma nonostante che il mondo dica che la merce di un poeta non è necessità, al loro sonno non do vittoria, né servizio alla vacuità o alla pesantezza. Ma da soldato il silenzio è la mia pagina. Lì, nel regno della perfezione, mi inchino, diventando terra per il suo seme, Allora sistemo bocci di paradiso fiorito, non in parole, ma in effimeri bouquet che il vento legge, raccoglie e come le dita porta coloro che respirando profondi sanno comunque cosa le parole vogliono dire. Non rimproverate il poeta stanco, perché con petali invisibili a più eterno il profumo. La poesia era il silenzio. Chiedilo a chiunque preghi. Grazie. Bravo, bravo. Allora, e ora vorrei che Joseph Turner ci parlasse. È venuto apposta dall'America e desidero tanto che esprima la sua dedica, il suo saluto a Vanna, molto volentieri. Prego, Mr. Turner, venga. Non è una cosa comune venire dagli Stati Uniti a Firenze per ascoltare Vanna Bond, eh? Questo sia chiaro. Common to come from the States to... Buonasera, signore e signore. Scusi, per favore, non parla italiano, non parla tua bella lingua, scusi. Però lei traduce. Sì, allora faremo così, che legge una frase, poi traduco io. When speaking of Vanna Banta, one could list awards and achievements, but these accomplishments are not what make her unique. Dunque, parlando di Vanna Bonta, potremmo fare una lista di premi e di successi, ma questi successi, queste riuscite, non sono quello che la rende unica. Her character and nature are reflected in her poetry and are what one should know about in order to understand her. Il suo carattere e la sua natura, come si riflettono nella sua poesia, sono quello che bisogna sapere su di lei per capirla. The word angel has been used to describe Vanna as though she were an ethereal being who ethereal heavenly being. La parola angelo è stata usata per descrivere Vanna come se lei fosse un essere etereo, celestiale. People are impressed with her appearance and her love for others and consider her to be so out of the ordinary that only angel describes her. La gente è colpita dal suo aspetto e dal suo amore per gli altri e la considera così fuori del comune che soltanto la parola angelo può descriverla. But Vanna would be the first to tell you that the divinity she possesses is shared by all other human beings, that all of us have the potential to be angels and to love completely and unselfishly. Ma Vanna sarebbe la prima a dirvi che la divinità che lei possiede è condivisa da tutti gli altri esseri umani, che noi tutti abbiamo il potenziale per essere angeli e per amare completamente e senza egoismo. For what motivates Vanna is love. She loves her family. She loves people individually. She loves humanity as a whole, and she loves the beauty and grandeur of nature. Perché ciò che motiva Anna è Vanna è l'amore. Ella ama le persone una per una, individualmente. Ama l'umanità come un tutto. Ama la famiglia sua e ama la bellezza e la grandezza della natura. Her poetry reflects these themes, and her life also reflects them. La sua poesia riflette questi temi e anche la sua vita li riflette. Although she is human and desires the things that all human beings want, success, safety, affection, understanding. She is motivated by pure love. Dunque, benché essa sia umana e desideri le cose che ogni essere umano desidera, il successo, la sicurezza, l'affetto, la comprensione, ella è motivata da puro amore. She writes from a desire to make the world a better place. Scrive mossa dal desiderio di rendere il mondo un luogo migliore. I hope that those of you who know her work share this view of Anna, and that those who have yet not come to know her will find inspiration in her words. Io spero che quelli fra voi, coloro fra voi, i quali conoscono il suo lavoro, la sua opera, condivideranno questa mia visione di Vanna, e che coloro fra voi che non hanno ancora potuto conoscere la poesia di Vanna, troveranno nelle sue parole una fonte di ispirazione. Molto grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Prego. Allora, deve aggiungere qualche ultima parola. Come vuoi. E te vuoi aggiungere? Una parola. No, io vorrei aggiungere una grande gioia di aver incontrato Vanna Bonta, grandissima, che è una donna luminosa veramente, e che proprio crea intorno a sé il benessere dell'intelligenza piena di bontà. E Bonta, il suo nome, vuol dire generosità in inglese, bounty, largess, generosità, munificenza, liberalità, ecco questo. Quindi vi ringrazio di essere intervenuti e alla prossima tornata. Grazie a tutti. Questo è dei no, questo è dei tuo. È tuo. Io ce l'ho dedicato.